se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, se llevará de tu querida presencia. Comandante, con soles de primavera. Comandante, para plantar la bandera. Comandante, con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, Che Guevara, de tu querida presencia. Comandante, Che Guevara. Eccoci di nuovo con Latinoamericana, la trasmissione del comitato Carlos Fonseca sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, una radio che si regge solo con il sostegno di chi la fa e di chi l'ascolta, e quindi manifestiamo questo sostegno versando delle cospicue sottoscrizioni al conto corrente postale 61804001, intestando il bollettino a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185 Roma. E noi qui in studio a San Lorenzo abbiamo oggi dei compagni e una compagna del Nodo Solidale, da poco tornati dal Messico, dai dipartimenti di Chiapas, Oaxaca, dove sono stati negli ultimi mesi, e ci racconteranno le ultime cose che sono successe in questa zona del Messico. E incominciamo purtroppo dal omicidio che c'è stato il 24 aprile scorso. Ne abbiamo dato notizia qualche settimana fa, l'omicidio di Juan Vázquez Gómez a San Sebastián Bachacón nel dipartimento del Chiapas. Un compagno che è conosciuto di questa comunità ciapaneca, e quindi ricordiamo un po' la dinamica dell'omicidio e per quale motivo, per quale lotta questa comunità sta tuttora combattendo, e quindi una lotta che vede nell'omicidio di questo compagno un tentativo di reprimerla, di ostacolarla. Sì, innanzitutto buon pomeriggio pomeriggio a tutti e a tutti, e ringraziamo come sempre il programma latinoamericano appunto per darci la possibilità appunto di ospitarci. Scusa, non stavi in onda, ti ho mandato. Poi se puoi ricominciare ti ho rimandato. Eccoci qua, innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti, e ringraziamo come sempre il programma latinoamericano appunto per ospitarci, per poter darci la possibilità insomma di raccontare un po' di storie che vengono dall'altro Messico, del Messico ribelle. Sì, come avete detto giustamente, iniziamo partendo dalla storia di Juan Vázquez, un nostro compagno. Ne parliamo con dolore perché appunto il 24 aprile di quest'anno è stato barbaramente assassinato davanti alla sua casa nell'Ejido de San Sebastián Bachacón, nel nord del Chiapas. Partiamo omaggiandolo, rendendogli omaggio, raccontando un attimo la sua storia, e contestualizzando appunto questa storia all'interno della storia dei movimenti sociali, delle comunità ribelli nello stato del Chiapas e non solo. Innanzitutto, Juan Vázquez era il portavoce, o comunque uno degli elementi più visibili, dei compagni e delle compagne aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona nell'Ejido de San Sebastián Bachacón. Per spiegarlo in breve termine, un ejido sarebbe una proprietà collettiva, quindi un'antica forma di possesso da parte delle comunità delle terre, che risale addirittura alla prima rivoluzione messicana. Quindi appunto non parliamo di una comunità ma di un territorio molto vasto nel quale sono presenti 100 comunità in maggioranza aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona. È un territorio al centro di una feroce repressione da molti anni, della quale Juan era già stato vittima come altri compagni e compagne della zona. Per spiegare brevemente la situazione, diciamo che l'Ejido de San Sebastián Bachacón è situato vicino alle cascate d'Agua Azul, quindi alle porte della Selva Lacandona nel nord del Chiapas. È un territorio turistico molto importante, nel quale appunto i vari interessi finanziari e economici che ruotano attorno a questo settore hanno sempre dato un'importanza strategica non indifferente. Il progetto, quello appunto che rientra nel grande progetto di sviluppo, tra virgolette, ovviamente come diciamo noi, del Plan Puebla Panamá, e adesso Piano Mesoamerica, è quello appunto di far diventare questa zona la Cancun verde. Ovvero, quando noi pensiamo a Cancun, pensiamo agli alberghi, ai villaggi turistici, al mare, allo sfruttamento turistico intensivo di quella parte dello Yucatan e del sud-est messicano. La Cancun verde significherebbe fare diventare questa zona una zona di interesse ecoturistico, sempre tra virgolette ovviamente, senza farci prendere in giro diciamo da questo tipo di terminologia. Ovvero una zona nel quale mettere alberghi e villaggi turistici e costruire un indotto e una serie di infrastrutture che facilitano lo sfruttamento turistico della zona. Ovviamente tutto questo a discapito delle comunità locali e delle popolazioni native della zona. E questo che significa? Significa la costruzione di autostrade, significa la costruzione di aeroporti, significa la costruzione di infrastrutture altamente invasive nei confronti del progetto dell'ecosistema naturale della Selva Lacandona e della zona, che vanno a incidere in maniera distruttiva a livelli assurdi nei confronti delle comunità locali. Ora, la storia di San Sebastián Bachacón, della sua militanza politica, la storia di Juan ruota tutto attorno a questo. Le ultime comunità dell'Ejido de San Sebastián Bachacón sono proprio a diretto contatto con le cascate d'Agua Azul, per cui sempre hanno subito una repressione molto forte e i tentativi di ostacolare questo tipo di progetti da parte dei compagni e delle compagne di San Sebastián. Dopodiché la comunità di San Sebastián Bachacón sempre si è battuta contro la costruzione del progetto dell'autostrada San Cristóbal Palenque, che addirittura doveva arrivare fino a Tabasco, un progetto in cui dagli Altos del Chiapas fino ai territori della Selva Lacandona tante comunità hanno posto resistenza attiva negli ultimi anni. Ora, quello che è successo il 24 aprile è proprio questo: in un momento di grande fervore politico e di riavvicinamento alla militanza per gran parte della comunità, dalla questione dei prigionieri politici alla questione dei megaprogetti, alla questione della resistenza, il compagno Juan è stato barbaramente e vilmente ucciso fuori dalla sua abitazione. Sono stati sparati 5 colpi di pistola, è stato chiamato fuori dalla sua casa, è stato freddato barbaramente nella notte del 24 aprile. Questo ovviamente la comunità si è riunita, la comunità ha riflettuto parecchio su questo ed è uscito anche un comunicato molto importante da parte di tutte le comunità aderenti all'Ejido di San Sebastián Bachacón e anche di tante altre comunità aderenti alla Sesta Dichiarazione della Selva della Candona nel Messico e nel mondo, denunciando questo assassinio come un assassinio barbaro da parte di chi l'ha compiuto, ma denunciando chiaramente chi sono i veri mandanti di questo assassinio: il governo federale, quindi il nuovo presidente Enrique Peña Nieto, che segna appunto il ritorno del PRI, del vecchio dinosauro, del vecchio partito che ha sempre governato in Messico, il ritorno del PRI anche attraverso il governo del Guerrero Velasco, Guerrero perché bianco di carnagione, quindi del governatore dello stato del Chiapas, che appunto applica nei confronti di tutte le resistenze in tutto il paese una politica ambivalente. Da una parte cerca di convincere il mondo sull'impegno del Messico nella tutela dei diritti umani e dall'altra uccide, assassina barbaramente, come in questo caso, come nel caso delle feroci repressioni delle manifestazioni che hanno seguito l'insediamento di Peña Nieto, e fa vedere, da una parte mostra i denti e dall'altra si potrebbe dire mostra la carota da un certo punto di vista, cioè fa credere al mondo che il Messico realmente si impegna nella tutela dei diritti umani quando assolutamente non compie in questo senso. Anche il governatore del Chiapas è del PRI. Sì, sì. Poi appunto il PRI stava al governo del Messico fino a 10 o 12 anni fa, mi pare. Sì, in totale per 70 anni. Per 70 anni. Quindi, insomma, non è il governo di centrosinistra che vorrebbe apparire nei confronti del PAN. No, abbiamo... ad esempio la contraddizione forte è che PRI significa Partito Rivoluzionario Istituzionale, però è il partito che ha guidato tutta la fase controrivoluzionaria dopo la rivoluzione di Zapata e le conseguenze negli ultimi 70 anni. Quindi è chiaro, stiamo parlando di un partito strettamente collegato con interessi economici statunitensi e comunque del mondo occidentale, un partito comunque conservatore ed estrema destra. Certo, noi ora mandiamo una piccola pausa musicale e poi ritorniamo sempre qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa a parlare di Messico, di Chiapas con il Nodo Solidale. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraiti. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi kichis. Que ya pues con la tapica ya tata jawa ya tata kuda pu ya rima ni kuda wa ki kuda pana ikuna. Kuna ka allí en taque wa ira kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13 y las patas me mozo taquita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusanchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. A dicembre quindi il PRI è tornato alla presidenza del Messico con Enrique Peña Nieto, questo rampollo della migliore società messicana, e da subito, insomma, dal giorno dell'insediamento, con gli scontri e la repressione di Città del Messico, in cui in questi mesi poi abbiamo, mi dicevi che ha fatto ben vedere di essere un alfiere della repressione per la conduzione di questi macro progetti minerari, di mega opere. Parlavi anche di un parco eolico in tutto il Messico. Quali sono stati, insomma, gli avvenimenti di questi primi mesi di governo di Peña Nieto? Beh, sì, innanzitutto ricordiamo che Peña Nieto comunque ha un curriculum, ovvero, a parte essere bellissimo, come viene detto da un sacco di gente in Messico, lo chiamano l'attore di telenovela, no? Quindi è un personaggio molto simile alla, non lo so, alla visione del berlusconismo che c'è stata in Italia per molti anni, probabilmente, come tipo di personaggio. E Peña Nieto nel 2006 era il governatore dello Stato di Città del Messico, quindi colui che ha ordinato la feroce repressione della rivolta in Salvador d'Adenco nel 2006 contro la costruzione del secondo aeroporto di Città del Messico. Una repressione feroce che è costata più di 200 arresti, che sono anche sono stati convalidati, che sono durati anche per gli anni. Una repressione forte che ha portato, ad esempio, negli scontri di piazza, ad arresti e a anche violenze sessuali nei confronti di diverse compagne. Quindi, insomma, il suo biglietto da visita era questo: il fatto di essere riconfermato, o comunque confermato come leader politico del PRI e eletto presidente. Già dall'inizio faceva intuire che la politica del Messico sarebbe cambiata solo in peggio, se se di peggio si può parlare, visto che prima c'era il governo il PAN, che era un altro partito di estrema destra. Quindi che succede? Dal primo dicembre Peña Nieto si insedia, e già dal primo dicembre nelle manifestazioni contro l'insediamento di Peña Nieto, appunto, già la polizia carica brutalmente e reprime brutalmente in piazza i movimenti che si opponevano all'insediamento di Peña Nieto, provocando numerosi feriti, fra cui il compagno Gui, che tuttora è in coma per un colpo di pallottole di gomma sulla testa. Quindi stiamo parlando già questo del primo dicembre del 2012. La repressione continua in questi mesi, e appunto la storia che abbiamo raccontato di Juan è un simbolo appunto di questa repressione, è un simbolo appunto sia della repressione da parte del governo, sia comunque della resistenza da parte delle comunità aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona in Chiapas e non solo, però continua sotto vari livelli. C'è il livello diretto, appunto, che è quello della repressione dei movimenti di piazza, che è quello dell'inasprirsi del fenomeno del paramilitarismo, ad esempio. Probabilmente nella vicenda di Juan sono implicati diversi gruppi paramilitari della zona, anche se non sappiamo bene ancora le dinamiche che hanno portato a questa uccisione. Nella questione dell'ostilità nei confronti delle comunità autonome zapatiste in Chiapas, comunque si sono riattivati diversi gruppi paramilitari già attivi da molti anni, appunto pagati e sovvenzionati dal governo. Questo per quanto riguarda comunque il livello anche più visibile, no? Il livello della repressione di piazza nei confronti dei movimenti che hanno portato in piazza i lavoratori e le lavoratrici al 1° maggio a Oaxaca, e la repressione nei confronti dei movimenti contro i megaprogetti non solo nello stato del Chiapas, ma anche nello stato di San Luis Potosí, nel territorio Viricuta, dove vogliono costruire una miniera enorme d'oro, o come ad esempio contro i comitati che si oppongono alla costruzione del parco eolico nell'istmo di Tehuantepec nel sud dello stato di Oaxaca, però di questo magari parleremo in seguito. Questo è un primo livello. Il secondo livello è quello più sotterraneo, quello appunto della faccia buona, della faccia il bastone e la carota, o il livello ad esempio della corruzione. Prima delle elezioni comunque il PRI entrava nelle comunità, entrava nei paesi, entrava nelle famiglie, nelle case, promettendo denaro, promettendo una lamina per costruire un tetto, quindi cioè, cercando di allontanare dalla lotta tutte quelle potenziali famiglie che per necessità si trovavano a resistere assieme a tutti i compagni e le compagne appunto delle varie zone, molto in Chiapas ma anche in vari stati, da Guerrero, Oaxaca, gli stati del nord che soffrono molto anche la questione del narco. Quindi questo è un livello, un doppio livello a cui il governo si presta e basa la propria politica. Per fare un esempio, il 19 aprile c'è stata una grande manifestazione di cui si è parlata anche qua in radio, per la liberazione del prof. Alberto Patistano, un prigioniero politico incarcerato dal 2000 in carcere a San Cristobal, perché la sua liberazione e la liberazione di altri prigionieri politici in Messico, una grande manifestazione che ha coinvolto decine di migliaia di persone nello stato di Tuxtla, nello stato del Chiapas, nella capitale Tuxtla. Il governo ha fatto pressioni fortissime perché questa manifestazione non venisse fatta, e addirittura il governatore Velasco si è presentato in carcere alle 10 di sera il giorno prima della manifestazione, promettendo a tutti i prigionieri e le prigioniere politiche la loro liberazione quasi immediata. Quindi un po' è questo il gioco: da una parte uccidere, da una parte reprimere, dall'altra parte promettere, cercare di convincere, in qualche modo convincere sia a livello nazionale che a livello internazionale che il Messico funziona, che il Messico ha una tutela dei diritti umani di un certo tipo e che soprattutto il governo compie quello che promette attraverso i fatti. Questo è uno dei loro motti, dei loro beceri motti, diciamo. E per tornare, hai citato sia le concessioni minerarie sia il parco eolico. Quali sono queste opere che vanno a distruggere i territori del Chiapas, di Oaxaca e di tutto il Messico? Sì, diciamo che allora questo è un problema molto comune sia in Centro America che in Latino America, ovvero i governi molto spesso hanno ceduto alle pressioni sia delle multinazionali che investono denaro nei confronti di progetti estrattivi, sia ai governi, che, governi anche, anche stranieri che prestano per questi progetti. Allora, un esempio molto lampante in Messico è lo stato di Oaxaca, dove una buona percentuale del territorio è stato svenduto da parte del governo locale e del governo federale a multinazionali che lavorano in questo settore. Parliamo di progetti di diverso tipo, soprattutto concessioni minerarie che vanno dal cemento, calce, sabbia, quindi anche progetti un po' più piccoli, a mega progetti abominevoli, come parliamo di miniere d'oro, miniere estrattive invasive di un certo tipo. Questo per quanto riguarda lo stato di Oaxaca è fortissimo in tutti i dipartimenti. Nel sud adesso c'è questo nuovo progetto, appunto questo progetto di una multinazionale soprattutto a partecipazione spagnola che si chiama Marina Rinnovabile, che è il progetto di costruzione di un mega parco eolico nell'istmo di Tehuantepec, che è una parte, diciamo, potremmo definire lagunare nel sud dello stato di Oaxaca. Sono nati diversi comitati, già la repressione nei loro confronti è fortissima da diverso tempo, anche se comunque hanno tanti compagni e compagne, tante realtà auto-organizzate hanno dimostrato solidarietà nei confronti della resistenza dei popoli dell'istmo di Tehuantepec. In quest'ottica, in questa diciamo in questo dibattito nello stato di Oaxaca, appunto nel mese di aprile si è realizzato anche un grande incontro nella comunità di Santiago Xanica, nel quale hanno partecipato diverse realtà, diverse organizzazioni, sia campesinas che organizzazioni anche cittadine, di quartiere, nel quale appunto si è discusso, anche noi come collettivo Nodo Solidale abbiamo partecipato attivamente, nel quale si è appunto discusso la questione dei megaprogetti, la visione che i popoli, che quelle comunità, che noi come compagni e compagne abbiamo dei megaprogetti, abbiamo condiviso determinate esperienze. Sì, appunto come diceva prima il compagno, nei giorni 6 e 7 aprile come Nodo Solidale ci siamo diretti nella comunità di Santiago Xanica insieme ad altri compagni e altre compagne di diversi paesi europei in una brigata della Pirata, piattaforma internazionalista per la resistenza e l'autogestione tejendo autonomia, appunto per questo grande foro, primo foro dei popoli indigeni resistenza che si è tenuto nella comunità di Xanica, a cui hanno partecipato 1500 persone di 30 comunità appartenenti a diverse organizzazioni come appunto il CODEP, l'OIDO, Organizzazione Sindias por los Derechos Humanos en Oaxaca, il CODEDI, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, e tutte appunto aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona delle ZLN. C'è da dire che precedentemente nel mese di febbraio avevamo partecipato a un'altra assemblea nella comunità di Buenavista Los Chicha, che era appunto un'assemblea a cui hanno partecipato dei rappresentanti delle diverse comunità che hanno dato vita al foro, appunto un'assemblea propedeutica per l'incontro di aprile, in cui ci hanno richiesto di fare una sorta di workshop riguardo soprattutto appunto alla questione delle grandi opere. E è stata interessante anche poi, diciamo, la riflessione che noi veniamo tutti da paesi europei a capitalismo avanzato, dove siamo sommersi fino al collo dalla questione delle grandi opere, ci siamo trovati appunto in relazione con comunità indigene che purtroppo per loro sono agli albori di questo nefasto capitolo, e quindi anche nasce la riflessione del fatto che il potere neoliberista usa al di là dei contesti sociali differenti gli stessi strumenti di oppressione per ricavare profitto e per poi andare a distruggere il tessuto sociale preesistente. Quindi noi gli abbiamo parlato della TAV e loro ci hanno parlato della centrale eolica nell'istmo di Tehuantepec, noi gli abbiamo parlato della questione della monnezza e degli inceneritori e loro ci hanno parlato della questione dell'autostrada che si vuole costruire nella regione Oaxaqueña, collegando diversi punti della costa, oltre che appunto della situazione relativa alle miniere, che come si diceva sono molte le concessioni fatte dallo Stato messicano a diverse società minerarie di diversi paesi stranieri. E appunto la miniera è qualcosa di totalmente devastante a livello di impatto ambientale, sia per la contaminazione dell'acqua attraverso il cianuro, oltre al fatto che penso sia più semplificativo di tutti, che una centrale, una miniera utilizza in un'ora lo stesso quantitativo di acqua che un nucleo familiare indigeno si trova a utilizzare nell'arco di 25 anni, quindi è qualcosa di mostruoso. Quindi è stato molto interessante partecipare in prima persona a questa assemblea e in seguito appunto al foro che si è tenuto nella comunità di Shanika. Appunto si diceva che vi hanno partecipato oltre 1500 persone in questi due giorni, quindi oltre la prima parte di presentazione per snellire un incontro di così grande partecipazione, si è trovato necessario dividere l'assemblea in tre tavoli che si occupassero di tre in diversi tavoli che di discussione che si occupassero di tre macro temi, ovvero le grandi opere, la terra e territorio e organizzazione, lotta e resistenza. E il giorno seguente, appunto il 7 aprile, poi partendo dalla base di ciò che era uscito dai tavoli, si è stilato un documento che adesso appunto andremo a leggere. Sono già uscite delle date dei prossimi appuntamenti, ovvero altri incontri che si terranno uno a giugno, un altro credo in agosto, e poi ci dovrebbe essere un evento più importante che dovrebbe essere appunto una marcia credo fissata per il 12 di ottobre. E adesso andiamo a leggere appunto il comunicato. Pronunciamento del primo incontro delle comunità in resistenza Santiago Shanika. Nei giorni 6 e 7 di quest'anno, nel municipio di Santiago Shanika, Miahuatlán, Oaxaca, nel primo incontro delle comunità in resistenza, convocato dalle autorità rurali e municipali e dalle organizzazioni Comitato in Difesa dei Diritti Indigeni, CODEDI, Organizzazioni Indigene per i Diritti Umani in Oaxaca, OIDO, Unione Contadina Indigena di Oaxaca, Emiliano Zapata, UCIO e ZETA, Collettivo Autonomo Magonista CAMA, Alleanza Magonista Zapatista AMZ, si sono riuniti circa 1500 partecipanti di oltre 30 comunità indigene, contadine, collettivi studenteschi, assemblee di quartiere e collettivi internazionali solidali di Francia, Italia, Germania, Svizzera e dello Stato spagnolo, sviluppando il lavoro dell'incontro con i seguenti temi: grandi opere, terra e territorio, organizzazione, lotta e resistenza. In 10 ampi tavoli di discussione con la partecipazione delle comunità delle regioni Sierra Sur Chatina, Sierra Sur Zapoteca, Costa, Mixteca e Valli Centrali, è stata analizzata la situazione che attualmente vivono le comunità di Oaxaca e nel contesto nazionale e internazionale di un mondo globalizzato, arrivando alle seguenti conclusioni e accordi. Le grandi opere, quali sono le miniere, i progetti eolici, le dighe idroelettriche, i grandi progetti turistici, lo sfruttamento dell'acqua da parte delle imprese, le superstrade e lo sfruttamento intensivo dei nostri boschi, non danno nessun beneficio alle nostre comunità e alle nostre regioni. Al contrario, servono solo ai grandi interessi delle imprese multinazionali, dei governi, a livello federale, statale, municipale e alle autorità agrarie colluse con queste istituzioni, per saccheggiare le risorse naturali delle comunità e che provocano come conseguenza la distruzione del nostro ambiente, la divisione delle nostre comunità, minacciano la nostra identità culturale e violano così tutti i nostri diritti fondamentali. Pertanto, l'accordo dei presenti è di non permettere l'ingresso di nessuna grande opera nei nostri territori. È nostra ferma decisione difendere i nostri territori, che comprendono le nostre terre, acque, boschi, aria, le nostre stesse comunità e i loro costumi, così come tutte le risorse naturali e minerali che vi si trovano. Per questo ci siamo accordati, per fare attenzione e vigilare le nostre autorità rurali e municipali affinché non si prestino ad offerte di corruzione con impresari e o governi che promuovono qualsiasi piano di sfruttamento e saccheggio delle nostre ricchezze. Allo stesso modo faremo uno sforzo maggiore per realizzare progetti alternativi di produzione agricola in armonia con la natura, rinunciando agli agrochimici e rifiutando categoricamente l'introduzione del mais transgenico nella nostra regione. Esigiamo la fine del sovrasfruttamento della nostra acqua e lo scarico delle acque fognarie senza essere trattate nei nostri fiumi e mari. Difenderemo la proprietà sociale della terra, che sia comunale o di ejido. Ci impegneremo a rafforzare l'organizzazione delle nostre comunità e organizzazione, resistendo ad ogni tentativo di divisione da parte dei partiti politici e contro la compravendita delle coscienze, perché abbiamo bisogno di unire le forze per affrontare i grandi interessi che ci minacciano. Daremo continuità a questi incontri e promuoveremo assemblee, laboratori, campagne informative a livello comunitario, statale, nazionale e internazionale, tessendo solidarietà e alleanze con le lotte e le resistenze di altri popoli del Messico e del mondo, riprendendo la grande sapienza dei nostri antenati che hanno continuato a resistere contro le imposizioni e le espropriazioni del nemico durante secoli. Non esiteremo nella costruzione di questa grande unità di popoli e organizzazioni in difesa dei nostri territori e dei nostri modi di vivere e dei diritti di tutti noi e delle future generazioni. Questo primo incontro delle comunità in resistenza si pronuncia inoltre per la fine della persecuzione degli attivisti del movimento antiolico dell'Istmo di Tehuantepec, la fine della criminalizzazione delle lotte sociali in difesa dei territori e delle risorse naturali, libertà incondizionata per i compagni David Venegas Reyes e Feliciano Efren Hernandez Pablo, libertà per tutti i prigionieri politici, la fine immediata dell'inquinamento dei fiumi e delle coste di Oaxaca con acque nere, no all'applicazione dei programmi Procede e Fanar nelle nostre comunità. Solidarizziamo con la lotta contro le grandi opere della diga Paso de la Reina, contro i grandi progetti minerari e allo stesso modo con la lotta antieolica. Solidarizziamo con la lotta dei movimenti europei, con le grandi opere del TAV del Nord Italia e contro il nuovo aeroporto a Notre-Dame-des-Landes, Francia. Ci pronunciamo contro le riforme neoliberiste di privatizzazione dell'educazione, dell'energia e del lavoro. Per la difesa dei nostri territori, uniti resisteremo, non un passo indietro. Santiago Chaniga, Mayutlán, Oaxaca, 7 aprile del 2013. Perdido todo tipo de coherencia. Hemos perdido partito de supervivencia, chocando y chocando, chocando contra lo mismo, cayendo y cayendo, cayendo en el mismo abismo. ¿No te diste cuenta que la cuenta regresiva ha sido activada? La bomba detonada y cuando explote no queda nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar la luna? ¡Qué cómico! De esta no te salva ni tu poder económico. ¡Qué trágico! Que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Como rata, la indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata, el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Caos genérico, pánico satánico, se extiende por el mundo un estado problemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico, la esperanza de este mundo desterrada de un mortífalico. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego. Hace parte de este juego cruel manejo del manejo, en el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencia al final, puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda. La dignidad un solete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda. Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico, y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro culo que se toca nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se vacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. E quindi in questo incontro le principali comunità del Chapa, Dio Akaka, si sono incontrate per confrontarsi su una difesa comune, sui metodi per impedire che vengano portati avanti questi megaprogetti. I compagni del Nodo, che sono oggi qui con noi a Latinoamericana sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, hanno partecipato a questa assemblea, quindi ci possono anche portare qualche testimonianza di quello che si è detto. Sì, abbiamo notato un po' di cose durante questi incontri, no? Soprattutto abbiamo notato l'importanza di questo tipo di incontri sia nello stato di Oaxaca, come può avvenire in un campeggio in Val di Susa, come può succedere al Bano con l'inceneritore, ovvero confrontare le esperienze, no? È interessantissimo, ad esempio, per noi è stato conoscere la lotta dei comitati contro la costruzione del parco eolico nell'istmo di Tehuantepec, perché noi non abbiamo molte esperienze a riguardo. Addirittura magari noi abbiamo uno spirito un po' più critico, magari tanta gente riesce pure a dire, sai che c'è, probabilmente è una fonte di energia rinnovabile, probabilmente è un progetto non così intrusivo e invasivo, capito, ai danni delle popolazioni, quindi va bene, anche positivo. E invece in questa assemblea, cioè in questa interazione che abbiamo avuto, c'è stato anche spiegato tutti gli effetti negativi che hanno nei confronti delle popolazioni. Come interessantissimo è stato il fatto che i compagni e le compagne presenti all'incontro hanno voluto conoscere la lotta e i racconti dell'esperienza da Val di Susa, del Notav, dei comitati contro il treno di alta velocità su in Val di Susa, delle mobilitazioni, della repressione che ne è seguita, e quindi è anche interessantissimo il fatto che loro abbiano voluto metterlo appunto come punto di solidarietà internazionale, la solidarietà internazionale nei confronti dei comitati Notav in Val di Susa e dei comitati contro la costruzione dell'aeroporto di Notre-Dame-des-Landes a Nantes in Francia. Ad esempio, a noi balza all'occhio subito questo paragone: Notre-Dame-des-Landes in Francia è Salvador Dadenco in Messico nel 2006, è lo stesso tipo di progetto, è la costruzione di un secondo aeroporto inutile in una città, è la storia dei comitati che si ribellano e che resistono contro la costruzione di questo megaprogetto, è la storia di una repressione, è la storia di un'occupazione della terra da parte dei compagni e delle compagne che si oppongono a questo tipo di progetti, e viene subito appunto il paragone, viene assolutamente naturale. Quindi questo probabilmente un elemento importantissimo appunto è questo, il fatto che la solidarietà internazionale non sia solo né una parola d'ordine né una parola sterile, ma sia più che altro una pratica che rafforzi i movimenti sia là che qui. Noi ci teniamo spesso a precisarlo quando parliamo di Messico come nodo solidale, e ne parliamo anche qua a radio, non vogliamo tornare a raccontare che là esiste il paradiso e si è raggiunto tutto raggiungibile in quel posto, e racconta solo come panegirico quelle esperienze, ma per noi significa anche porci un po' come ponte, come tramite, no? Fra i compagni e le compagne con cui si lotta giù in Messico e le realtà che conosciamo qua. Per quello appunto per noi è interessante anche parlare delle lotte che ci riguardano più da vicino in Italia quando siamo in Messico, e magari tornando in Italia parlare delle lotte messicane qui a Roma, ad esempio. Sì, poi giustamente facevi notare come i modelli adottati, i linguaggi adottati siano gli stessi, e spesso anche le multinazionali sono le stesse. Tu prima mi pare che hai parlato anche dell'Enel nel Messico. Ricordiamo che l'Enel è questa grande multinazionale italiana che noi conosciamo semplicemente per quello che fa in Italia, per le pubblicità che manda in giro sulla sua nuova vocazione pulita e ecosostenibile. In realtà abbiamo già denunciato più volte come l'Enel stia portando avanti dei progetti in America Latina distruttivi per tanti ecosistemi e tante comunità, e che vengono strenuamente combattute da queste comunità, quelle della Patagonia, con la costruzione di 5 centrali idroelettriche in Patagonia, con la diga che vuole costruire nel Quimbo in Colombia, una diga che tra l'altro deve essere costruita da un'altra multinazionale italiana in pregilo, con la diga che ha già costruito in Guatemala. Quindi spesso ci troviamo davanti lo stesso nemico, gli stessi modelli economici e gli stessi modelli con cui si tenta di imporre queste opere, e quindi è giustamente, come ricordavi te, è utile anche confrontarsi su i modelli da adottare per contrastarli. E tu prima mi stavi dicendo anche che l'Enel inizia ad avere degli interessi in Messico. Beh, innanzitutto allora per quello che sappiamo noi, l'Enel ha molti interessi ad esempio in Guatemala, nella zona del Guatemala adesso, sia legate soprattutto legate alla questione delle dighe idroelettriche. Abbiamo notizie anche che stiano comprando ad esempio dei territori in Messico. Nel sud, ad esempio, tanti territori già li ha comprati la Coca-Cola. Quindi la questione dell'acqua, ad esempio in Chiapas, è molto legata alla questione dell'appropriazione da parte della Coca-Cola dei terreni. Quindi già quello è un sintomo importante del fatto che multinazionali straniere entrano nel territorio e comprano territori che già sono svenduti da parte dei governi locali appunto per porre megaprogetti o installazioni di vario tipo, fra cui le dighe appunto. Quindi l'Enel entra in questo discorso appunto dal Cile alla Colombia al Guatemala, e si sta interessando anche il Messico. Per ribadire quello che dicevi tu, una cosa che abbiamo notato molto anche in questo tipo di assemblea è stato il fatto che, oltre a essere spesso e volentieri anche gli stessi nomi, appunto tu citavi giustamente l'Impregilo, l'Enel, Per quanto riguarda anche i compagni spagnoli, ad esempio esiste la Marina Rinnovabile, appunto, che è questa impresa che sta costruendo là il parco eolico a Tehuantepec, e sono comuni anche i linguaggi, ovvero le imprese, le multinazionali che costruiscono queste grandi opere utilizzano gli stessi tipi di linguaggi lì che qui in Italia, ovvero dipingono queste grandi opere come supermoderne, le dipingono di verde, appunto, come dicevi giustamente, dell'Enel, quindi le dipingono come positive, promettono lavoro, quindi promettono lavoro nemmeno mantenendolo poi questa promessa alle comunità locali, e promettono compensazioni. Quindi come in Val di Susa, come in una marea di altri posti, promettono alle comunità locali di per sé comunque molto più povere, ad esempio, che le comunità locali qui in Italia, quindi lì si aggrava la situazione, promettono questo, ovviamente non mantengono niente e portano solo distruzione, disgregazione delle comunità, perché spesso e volentieri succede che vari territori vengono occupati, anche comprati da queste società, le comunità comunque vengono indebolite da questo tipo di discorso, quindi questo per noi è importantissimo, il fatto di notare attraverso il confronto che i linguaggi da parte del potere nell'imporre questo tipo di grandi opere sono gli stessi in tutto il mondo, e quindi attraverso, appunto, la solidarietà internazionale, attraverso la solidarietà attiva, possiamo anche noi, appunto, costruire dei linguaggi che si oppongano a quel tipo di linguaggi e pratiche che si oppongano a questo tipo di progetti. Para los que no seguimos el camino que dictas tú, y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no. No creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Puro bla bla bla y nada de verdad contigo, puro bla bla bla, mentiras sin parar, puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados, este es el canto de los simbos, simbos, la voz. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los simbos, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. Es el que dice no más. No sé qué está pasando aquí, tanta violencia, tanta destrucción. Podría salirse de control, el tiempo va deprisa, hay que reaccionar. Despierta, wake up. Estamos armando el poder caracol, escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados, este es el canto de los simbos, simbos, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados, escucha como suena la voz de los simbos, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados, esa que dice no más. No más. Ed eccoci di nuovo in diretta, è arrivato il momento dei saluti, già vedo pronti i compagni e le compagne di Impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività, che partirà tra qualche minuto. Alle, vedo gesti di saluto dai compagni, partirà alle 17.30 su, sempre su Radio Onda Rossa, poi a seguire alle 18.30 il Tappabuchi, trasmissione dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la precarietà, e alle 19.30 il giornale radio. Ora salutiamo i compagni del Nodo che sono venuti, e la compagna del Nodo che sono venuti qui con noi oggi a Latinoamericana per parlare del Messico. Già tra pochi minuti metteremo sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org la registrazione della trasmissione di oggi. Diamo pure il sito del Nodo per chi voglia seguire le notizie che arrivano dal Messico. Sì, nel salutarvi a tutti e a tutte, no? Nel salutarvi a tutti e a tutte, ringraziamo la trasmissione latinoamericana per averci ospitati e ricordiamo il sito del Nodo Solidale, che è www.autistici.org/nodosolidale. Bene, un saluto anche a voi e un saluto a tutte e tutti quelli che ci hanno seguito quest'oggi, in particolare a chi lo ha fatto privato della propria libertà. Lo haremos tú y yo.